Letture di Radio 24. Nel suo corsivo sul Corriere della Sera, pubblicato all'indomani dell'attentato terroristico alla redazione del settimanale Charlie Hebdo, Ernesto Galli della Loggia invoca il diritto a poter criticare l'Islam senza essere tacciati di islamofobia. Quello che risuona ancora nelle nostre orecchie è il grido dei terroristi: «Allah è grande, abbiamo vendicato il profeta Maometto», scrive Della Loggia. Oggi, per l'opinione pubblica del mondo civile, conta solo che essi abbiano detto queste parole, che nell'uccidere abbiano fatto appello all'Islam. Per esorcizzare un simile dato inquietante e mille altri dello stesso tenore di questi anni, la parte più colta e politicamente corretta dell'opinione pubblica di cui sopra ha adottato da tempo in Europa il termine islamofobia, e pensando così di risolvere il problema. Invece il problema c'è. Esso resta come un macigno a dispetto di ogni buona volontà e di ogni discorso edificante. Ed è precisamente il problema dell'Islam, cioè di un insieme di religione, di cultura e storia riguardante in totale circa 1,5 miliardi di esseri umani, dove nel complesso, perché vi sono anche le eccezioni, e sarebbe da stupidi ignorarle, vigono regole diverse e, questo è il punto decisivo, per lo più incompatibili con quelle che vigono in quasi tutte le altre parti del mondo, dove le donne non hanno gli stessi diritti e doveri degli uomini, e per le prime può essere considerato un reato perfino guidare un'automobile, dove la distinzione sociale tra sfera religiosa e sfera civile è labile se non assente, dove aprire una chiesa cristiana è per lo più vietato, dove i regimi politici hanno quasi sempre carattere dispotico e di rado riconoscono le libertà, a cominciare dalla libertà di stampa, che altrove sono invece considerate ovvie. Dove, come hanno imparato con il loro sangue le vittime di mercoledì scorso, la satira contro il potere è sconosciuta e quella contro la religione considerata inconcepibile. Non basta. Un insieme di religione, cultura e storia dove pressoché ognuna di queste cose è largamente suscettibile di essere percepita o interpretata come blasfemia, come una bestemmia contro l'onnipotente da pagare con la morte. Se l'Islam è questo, allora noi vogliamo avere la possibilità di criticarlo come ci pare e piace, come abbiamo imparato a criticare il cristianesimo, il buddismo e mille altre cose, possibilmente avendo diritto a non rischiare con ciò la vita. Diritto che, tra l'altro, ci piacerebbe vederci anche riconosciuto da più di qualche voce autorevole di quel momento. Avete ascoltato la lettura del corsivo di Ernesto Galli della Loggia l'11 settembre dell'Europa, dal Corriere della Sera dell'8 gennaio. Letture di Radio 24. Purtroppo per i tifosi brasiliani al Mondiale la tristezza dura a lungo, lo dice Philippe Verduin dell'Università di Lovanio. Di 27 stati d'animo analizzati, la tristezza è il più persistente. Dura fino a 240 volte più di quelli con durata più breve, come sorpresa o disgusto, perché è causata da episodi che consideriamo importanti, fattore che vale per altre emozioni di lunga durata come la gioia, e in più è caratterizzata dal fatto che continuiamo a pensare all'evento triste e a tenere viva l'emozione. Quello che avete ascoltato era l'articolo Emozioni, la tristezza ha il record di durata, dal numero di gennaio del mensile Focus. Un pendolare della tratta Mantova-Cremona-Milano ha creato un foglio Excel nel quale ha elencato, giorno dopo giorno, tutti i disagi riscontrati viaggiando con Trenord, la compagnia ferroviaria nata dalla fusione di Ferrovie Nord e la rete regionale di Trenitalia. Risultato? In un anno, ben 41 ore di ritardo. I suoi cahiers de doléances sono tutti lì, su un foglio Excel. Nero su bianco, trasparente, anche perché un documento non è una lamentela fine a se stessa se scrivi un bel elenco dei reclami che hai inoltrato per davvero in un anno a Trenord. Carta canta, d'altronde. E Marco Guarneri, pendolare della tratta Mantova-Cremona-Milano, affida infatti alla penna, con la quale verga un quaderno delle lamentele, che costa fatica prendersi la briga di buttare giù, il disagio suo e di tanti pendolari che ogni giorno devono prendere il treno per andare al lavoro o a studiare a Milano. Lo stato dell'arte di Trenord, l'azienda che gestisce il trasporto ferroviario regionale. Carrozze fredde o surriscaldate, porte mancanti, finestrini rotti. Senza contare ritardi di vario genere, oltre ad altre ed eventuali. Già, perché Guarneri di servizi li ha catalogati, in modo da inviare reclami specifici all'azienda milanese. E ha provato a riepilogare i dati principali del servizio vissuto direttamente e quotidianamente relativo alla tipologia di abbonamento. I numeri sui circa 400 viaggi fatti fino ad oggi, 327 i reclami finora conteggiati, 114 perché non c'era la prima classe, 67 per carrozze fredde o surriscaldate, porte inagibili, finestrini rotti, 128 per ritardi, solo quelli superiori ai 5 minuti, altrimenti parleremo di quotidianità, 18 per altre cause. Ha tenuto traccia dei reclami e delle risposte quando sono pervenute. Siamo nell'era di internet, dice Guarneri. Ma per quanto riguarda i dati comunicati all'utenza, anche tramite il loro sito, Trenord pare essere ancora all'età della pergamena. I giorni di viaggio con almeno un reclamo sono stati 170, che equivale all'85%, mentre i viaggi con almeno un reclamo sono stati 261. Il ritardo complessivo nell'anno è stato di 2.474 minuti, ovvero 41 ore e 14 minuti. Trenord ha decisamente superato il valore del 2012 di 35 e anche ampiamente quello del 2013 di 23. Capite bene che non è un mistero spiegarsi perché Legambiente ha annoverato la Cremona-Mantova tra le 10 peggiori arterie ferroviarie d'Italia. Con Trenord, inguaribile ottimista, che invece aveva definito molto più che diplomaticamente la situazione della tratta non ottimale. Alla faccia! E quello che avete ascoltato era l'articolo di Simone Bacchetta «In un anno, ritardo di 41 ore, 128 reclami a Trenord», dal Fatto Quotidiano del 30 dicembre. Ogni volta che avviene qualche fatto eclatante, si lanciano grida di allarme e si invocano nuove regole. Ma non sarebbe sufficiente applicare quelle che già ci sono? Commenta così Pierluigi Battista sul Corriere della Sera. I giorni pari ci dicono che ci sono troppe leggi e che la parola d'ordine è semplificazione. Ma i giorni dispari, quasi sempre sotto gli effetti di un allarme sociale molto enfatizzato dai media, ci dicono che ci vogliono nuove regole. È il feticismo della regola, l'idea un po' puerile e un po' tardo sovietica che una legge possa definitivamente mettere ordine nel mondo. È un'amnesia collettiva perché l'invocazione delle nuove regole dà l'impressione che le regole non ci siano, mentre invece ci sono, tante, complicate, farraginose e quasi mai applicate. Ora il governo tuona contro i vigili urbani che a Roma hanno marcato visita la notte di Capodanno e si appella a nuove regole. Ma perché? Ora si possono rilasciare certificati medici compiacenti? E le nuove regole per combattere l'assenteismo? Non è che semplicemente le regole attuali non sono applicate? Quando mettono dentro qualche politico e qualche riverito membro della cupola degli appalti, dicono che ci vogliono nuove regole, nuove leggi anticorruzione. Ma perché? La corruzione e la concussione non sono già proibite dalle regole esistenti? E in fondo, se un magistrato apre un'indagine, non vuol dire che il reato è stato scoperto e che dunque non c'è bisogno di nuove regole per perseguirlo? Esortano a nuove regole per stroncare il femminicidio. Ma perché? Non è già reato ammazzare la moglie o la fidanzata? E per la verità anche il marito o il fidanzato? Davvero un paio d'anni di più di ipotizzata galera può dissuadere uno squilibrato dall'uccisione della propria consorte, magari con l'aggiunta dello sterminio della propria famiglia? Dicono che ci vuole la nuova regola dell'aggravante omofoba per punire chi massacra un gay. Ma perché? Non è già un reato gravissimo picchiare a sangue chi che sia, a prescindere dall'orientamento sessuale della vittima? Dicono che ci vogliono nuove regole per arginare la pedofilia. Ma perché? Non è più un reato usare violenza su minori o diffondere materiale pornografico con bambini vittime degli orrori degli adulti. Dicono che ci sono nuove regole per contrastare la violenza negli stadi. Ma perché? Non ci sono già le nuove regole e non c'è forse già la vecchia e saggia regola che se in prossimità di uno stadio vai in gruppo mascherato e armato di bastoni vuol dire che stai commettendo un reato? Le nuove regole sono un mantra inefficace eppure illiberale. Applicare quelle vecchie? Che fatica! E quello che avete ascoltato era l'editoriale di Pierluigi Battista, Il feticismo illiberale delle nuove regole, dal Corriere della Sera del 5 gennaio. Immaginate una metropoli di 20 milioni di abitanti, zeppa di automobili, perennemente congestionata, con pendolari che finiscono per rimanere bloccati nel traffico anche per 3 ore al giorno. Fatto? Benvenuti a Città del Messico, la prima tra le conurbazioni più caotiche del pianeta. Per chi ci vive e lavora, un incubo quotidiano. Per chi ha il compito di amministrarla, un rompicapo gestionale da perderci la testa. Qualcosa però si può fare. Da qui sono partiti José Castillo, Carlos Gersenson e Gabriela Gomez Mont, il terzetto di innovatori che propone la creazione di una rete aperta a cui partecipano singoli cittadini, aziende private ed enti governativi locali. Come ha spiegato Castillo, la nostra città ha bisogno di un sistema che aiuti la gente a scegliere le tipologie di mobilità urbana più appropriate e che affianchi politici e progettisti nell'elaborazione di risposte di lungo termine alle tematiche della megacity. In questo contesto i pendolari assumono un ruolo attivo come donatori di dati, divenendo essi stessi parte della soluzione del problema in cui si trovano coinvolti. Informazioni anonime, comunicate in tempo reale tramite un'apposita app o un sito web dedicato, magari dal chiuso di un'auto bloccata nell'ingorgo da ora di punta, che diventano base per decisioni più o meno immediate da parte di terzi, siano essi commuters o organi di governo locale. Risultato, un'istantanea del network dei trasporti e dei suoi punti critici, che integra dati in arrivo anche da piattaforme sociali come Twitter o Foursquare. La prima versione del sistema operativo ha fatto il suo debutto a settembre, con decine di migliaia di datasets distribuiti nelle settimane successive. Ora l'esperienza continua, con l'obiettivo di definire un sistema che possa essere adottato anche nelle altre metropoli del mondo. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Guido Furbesco, Troppo traffico? Passami il telefonino, dal numero di gennaio del magazine Il. Attenti ai pensieri compromettenti. Un gruppo di scienziati è riuscito a decifrare le parole della nostra voce interiore, quella che sentiamo in testa quando leggiamo o ragioniamo. Stiamo provando a decodificare la relativa attività cerebrale. Obiettivo futuro, creare protesi che permettano di comunicare, per esempio, a chi ha gravi paralisi e non parla, spiega Brian Paisley dell'Università della California a Berkeley a guida del team. Abbiamo ipotizzato che nel cervello scatti la stessa attività quando si ascolta un discorso o lo si pronuncia silenziosamente, dice Paisley, che ha elaborato un algoritmo per decifrare le parole pensate. Ha registrato e analizzato l'attività neurale di 7 pazienti epilettici, che avevano perciò elettrodi nel cervello, intenti a leggere brani prima a voce alta e poi in silenzio. E dalla sola attività cerebrale nella lettura in silenzio, il software ha ricostruito per alcuni volontari le parole pensate. E quello che avete ascoltato era l'articolo Così si spia la nostra voce interiore, dal numero di gennaio del mensile Focus. La medicina difensiva è uno dei più grossi problemi che abbiamo in sanità, ossia il ricorso a esami, test, accertamenti, prestazioni che il medico richiede non per tutelare il paziente, bensì se stesso, per preservarsi da richieste di atti risarcitori e denunce. Purtroppo tutto questo si traduce in una spesa che nel 2014 è arrivata a 13 miliardi di euro, l'equivalente di una manovra finanziaria, soldi buttati via. Per la medicina difensiva si spende ormai poco meno di quanto si investe in ricerca. Alla base di questo atteggiamento ipercautelativo c'è l'aumento di denunce da parte dei pazienti. Dal 1998 a oggi le azioni di rivalsa contro i medici sono aumentate di 4-5 volte. È cambiato il rapporto medico-paziente. Non sempre in peggio, certo, ma oggi il malato ha aspettative alte, vuole che il medico risolva tutti i problemi, pretende la guarigione. Ma il medico può curare, non sempre guarire. Ed è difficile da accettare. Così, se non guarisco è colpa del medico o dell'ospedale, che diventano il bersaglio di cause e denunce. Le assicurazioni in campo sanitario hanno raggiunto costi in totale di 500 milioni di euro e i premi assicurativi sono lievitati: 6-8 mila euro l'anno per un ortopedico, 18 mila per un chirurgo plastico, 14 mila per un ginecologo, le specialità maggiormente sottoposte ad azioni risarcitorie. Tanti ospedali hanno scelto l'autoassicurazione, ossia accantonano ogni anno una cifra per coprire potenziali rischi. 3 milioni di euro l'anno in media per gli ospedali grossi, una cifra non sempre sufficiente e ottenuta facendo tagli altrove. Da tutto questo, però, il paziente non trae beneficio, al contrario. Se c'è un sospetto di malattia, è giusto fare tutti gli accertamenti necessari. Ma è sempre così? È sempre giustificata una tale spesa? L'accumulo di raggi X, TAC, risonanze magnetiche e altro causa lunghe liste d'attesa e ritardi nel trattamento terapeutico. Senza contare il moltiplicarsi di esami invasivi o sgradevoli, o semplicemente inutili. Infine, il medico pensa di tutelarsi, ma la medicina difensiva rischia di diventare un boomerang, un elemento di colpa. Faccio un esempio. Se io richiedo 4 risonanze magnetiche e poi mi trovo di fronte al giudice per una denuncia, quel giudice si chiederà come mai ho fatto fare 4 volte gli stessi esami e non ho affrontato prima il problema di quel paziente. Perché ho perso tempo prezioso prima di giungere a una diagnosi e una cura. È un fenomeno di difficile soluzione, ma che va affrontato. In Italia la spesa globale della sanità sale di 2,2 punti percentuali l'anno. Nel 2014 è costata 112 miliardi di euro, una cifra impressionante. Quando si parlerà di tagli alla sanità, i costi inutili della medicina difensiva dovrebbero essere un argomento centrale. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Giuseppe Bonfiglio, Se il medico protegge solo se stesso, da Panorama del 14 gennaio.